Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia della poetessa Concetta Padula, dal titolo Paese Natale. Paese diroccato tra i monti, ai miei ricordi non ti nascondi. Scavando nella memoria, ripercorro con nostalgia la mia storia, storia di un uomo emigrato, storia di un paesano che ha osato prendere in mano una valigia di cartone e arrendersi davanti a una fabbrica di carbone. Ora, vecchio, mi sento come un uomo esiliato, un uomo che ha abbandonato il paese natale e non più rivedere la festa patronale. Sono diventato un vecchio canuto, il tempo per me ha ceduto all'amarezza della vita, ma non ho obliato la bellezza dei fiumi, dei ponti, dei boschi e dei miei amati monti.